Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Come abbiamo già ricordato in altre puntate, una delle destinazioni più sensate per varie tipologie di rifiuti che per diverse ragioni non trovano la via del riutilizzo o del riciclo è l'utilizzo come materiale da costruzione. Sono decine in giro per il mondo gli esperimenti e i progetti che mirano a produrre mattoni da rifiuti di ogni tipo, se il caso dopo processi naturalmente di trattamento che li rendano stabili e innocui questi rifiuti. Così facendo si riescono a utilizzare come materia prima per mattoni scarti di plastica piuttosto che scarti vegetali o anche la raccolta indifferenziata. Ebbene, tra i rifiuti più abbondanti e adatti a questo tipo di utilizzo ce n'è uno che tra l'altro ha anche un glorioso passato proprio come materiale da costruzione, ma che oggi è quasi del tutto abbandonato: la paglia. In particolare la paglia di riso, che per il suo abbondante contenuto di silice è anche particolarmente stabile e difficile da smaltire. Ne parliamo con Tiziana Monterisi, che è un architetto che lavora da anni con la paglia e in particolare proprio con la paglia di riso. Buonasera Monterisi. Buonasera. Allora, intanto appunto si tratta di uno scarto molto abbondante questo della paglia di riso. Sì, perché essendo l'Italia il primo produttore di riso in Europa, solo nella zona di Biella Vercelli abbiamo a disposizione ogni anno 360.000 tonnellate di paglia. Di paglia di riso. Poi c'è la zona del Veneto dove chissà quanto altro se ne produce. Insomma, quindi ne abbiamo tantissimo soprattutto in Italia. Perché la paglia di riso in particolare è un materiale adatto per le costruzioni? Perché contiene una percentuale di silicio molto elevata che non permette alla paglia di marcire e non permette all'utilizzo della bruciatura, perché produrrebbe una quantità di cenere molto brucia elevata. Male, produce anche un sacco di cenere quando la si brucia. Insomma, è difficile da smaltire perché non si degrada, ma proprio il fatto che non si degradi la rende adatta come materiale da costruzione, no? Esatto. E quali sono le sue proprietà? Beh, sicuramente le principali, se ne devo scegliere tre, sono il fatto che ha un isolante termico di altissime prestazioni, sia per il periodo invernale, quindi protegge dal freddo, sia per il periodo estivo protegge dal caldo. Il secondo è acusticamente, ha un elevato grado acustico. Di fonoassorbenza, certo, anche perché è un isolante pesantuccio, nel senso non è come il polistirolo, no, per ha capire. Una densità abbastanza elevata, di circa 110 kg a metro cubo, e quindi è interessante anche dal punto di vista acustico. Sicuramente per la sua elasticità sismico, e soprattutto può essere usato anche a livello strutturale. Può addirittura essere usato a livello strutturale, ecco, perché appunto quali sono oggi le modalità di utilizzo? Allora, può essere usato come mattoni portanti e quindi con tecniche proprio strutturali, dove la paglia è anche strutturale. Può essere usato come isolante all'interno di un telaio, quindi con struttura in legno, e può essere usato a cappotto su strutture già esistenti. Perfetto, insomma, quindi un po' tutte le applicazioni sarebbero possibili. Ecco, così guardando anche un po' così su internet quello che si muove in questo ambito, la sensazione è che però ci si trovi di fronte, rispetto a questo tema della paglia, ad una soluzione molto artigianale, un po' per ambientalisti militanti, no? Che sono soluzioni che vanno bene, per l'amor di Dio, nessuno dice di no, ma è difficile fare grossi numeri con un approccio di questo genere. Le domando se è possibile immaginare una prospettiva, un approccio un po' più industriale nello sfruttamento di questo scarto che viene prodotto in quantitativi industriali. Sì, assolutamente. Si può arrivare alla prefabbricazione, quindi non usare la paglia come mattoni portanti, ma usare la paglia all'interno di un telaio, quindi il sistema platform frame, dove si potrebbe prefabbricare in carpenteria e quindi fare tanti metri quadri, creare dei pannelli di diverse dimensioni che vengono poi montati, assemblati in cantiere, come un vero prefabbricato. Ecco, ma è anche immaginabile usare la paglia in dei materiali compositi? In fondo, una volta i mattoni di paglia e fango si facevano, parlo di migliaia di anni fa, no? E uno faceva da legante, come dice, il fango, e la paglia dava le proprietà strutturali al mattone. Certo, ci sono università che stanno studiando proprio per creare un nuovo materiale isolante legato con la lana di pecora piuttosto che altri materiali, dove si potrebbero ridurre gli spessori, perché la baglia di paglia che noi utilizziamo ha uno spessore dato dalla macchina agricola che è elevato, perché sono al minimo 35 centimetri. E oggi il CNR, per esempio, sta studiando e sta testando dei materiali invece di spessori minori, ma che possono avere usi diversi e quindi una industrializzazione di un sottoprodotto. Ecco, insomma, quindi è una prospettiva aperta questa qui, ma c'è qualcuno che ci sta lavorando invece industrialmente in Italia? Allora, in Italia nessuno ci sta lavorando a livello imprenditoriale e industriale. Chi lo usa sono architetti o imprese che vogliono sperimentare un nuovo materiale. A livello universitario cominciano a studiare le possibilità che questo materiale offre. Grazie, grazie Tiziana Monterisi. Grazie mille.